Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Per quanto concerne la produzione di biocombustibile, molte speranze sono riposte nelle alghe. Come abbiamo già sottolineato altre volte, infatti non solo le alghe hanno una rapidità di crescita sconosciuta alla biomassa terrestre, ma inoltre, poiché non vengono coltivate sulla terraferma, non entrano in competizione con l'agricoltura tradizionale. Questo è importantissimo per paesi come l'Italia, che ha una superficie agricola modesta ma moltissimi chilometri di coste, ed è ancora più importante se per esempio pensiamo ai paesi costieri della fascia arida del pianeta, dove la terra coltivabile va strappata al deserto. Gran parte degli sforzi però finora è stata indirizzata su alghe monocellulari ricche di grassi da cui ricavare biodiesel. Settimana scorsa invece proprio in Italia, e precisamente a Siracusa, è stato lanciato un nuovo progetto con forti caratteri di originalità. Progetto che punta su un nuovo tipo di alghe da coltivare per produrre non più biodiesel ma biometano. Il progetto si chiama BioWall for Biofuels, vede la partecipazione di molti partner internazionali e sarà finanziato per i tre quarti dalla Commissione Europea. Capofila del progetto è l'Università La Sapienza di Roma, e ne parliamo con il professor Silvano Simoni, proprio dell'Università La Sapienza di Roma. È professore al Dipartimento di Ingegneria Chimica e dei Materiali ed è anche coordinatore del progetto. Buonasera Simoni. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora Simoni, parliamo di 5.000 metri quadri di vasche galleggianti, più o meno mezzo campo di calcio, che saranno posizionate in mare nella rada davanti a Siracusa. Allora, che cosa ci butterete dentro a queste vasche e che cosa ne tirerete fuori? Cominciamo da qui. Il progetto nasce dall'utilizzo di acque inquinate da nitrati e fosfati. Questi sono i composti chimici base per una crescita veloce di alghe. Sono sostanze che infatti si trovano nei fertilizzanti di solito, no? Fosfati e nitrati. Noi cerchiamo proprio di dimostrare che è possibile effettuare una fitoepurazione, quindi una pulizia delle acque attraverso una crescita algale laddove proprio esistono queste sostanze. D'accordo, quindi c'è proprio un'area di mare, diciamo così, un po' eutrofizzata, ricca di queste sostanze che andranno a nutrire le vostre alghe. Cos'altro somministrate alle alghe? Ad esempio la CO2, che è presente localmente, in quanto la un partner, che è l'Ecooil di Augusta, ha una quantità di CO2 emessa dai camini, ma in più, oltre a questo, abbiamo anche altri composti, ad esempio provenienti dagli scarti agricoli, zootecnici o dell'industria agroalimentare, e tutto questo fa un mix che mi permette di alimentare le alghe e farle crescere più velocemente. Insomma, voi prendete una serie di rifiuti, la CO2, che è in fondo un rifiuto in questo caso, questi scarti agricoli, e poi c'è quest'acqua un po' inquinata, mettete assieme il tutto e le alghe crescono in modo molto abbondante. Che alghe sono? Che cosa ci fate? Le alghe, abbiamo deciso di utilizzare macroalghe, ci distinguiamo dagli altri progetti in quanto gli altri utilizzano microalghe, cioè li utilizziamo alghe monocellulari di solito vengono utilizzate, invece le vostre sono alghe visibili. Esatto, sono alghe che hanno una certa dimensione e per questo è più facile separarle dall'acqua per immetterle in un digestore anaerobico che mi produce biogas. Biogas, perfetto, quindi digestore anaerobico vuol dire che ci sono dei batteri che si mangiano queste alghe e producono come scarto biogas che è ricco di metano, no? Esattamente, tra l'altro per la produzione di biometano abbiamo l'utilizzo di un brevetto italiano che permette di abbattere i consumi energetici di produzione. Questo perché per rimescolare il materiale che andiamo ad utilizzare per produrre biogas si utilizza una sorta di cilindro che gira grazie a delle bolle che si formano spingono questo cilindro e lo fanno girare, così voi rimescolate tutta questa fanghiglia. Tra l'altro, una volta prodotto il biometano, questa fanghiglia ha un suo utilizzo. Si potrà utilizzare come fertilizzante ammendante, in quanto lì vi è concentrata una grande quantità di nitrati e quello è il costituente fondamentale del fertilizzante. Senta, col biogas che produrrete che cosa ci farete? Mi sono due possibilità. La prima, intanto, nella prima fase del progetto lo utilizzeremo principalmente per produrre energia elettrica. Okay. inserendolo in un congelatore o in una cella a combustibile. Nel secondo step invece raffineremo ulteriormente questo biogas per inserirlo nel campo dell'autotrazione. I quantitativi in gioco di biogas sono intorno ai 1000 metri cubi al giorno. 1000 metri cubi al giorno, 5000 metri quadri di vasche. Senta, qual è il vantaggio rispetto alla coltivazione delle alghe per biodiesel di questo metodo? I vantaggi sono numerosi. Il primo di tutto, per produrre biodiesel c'è la necessità di utilizzare le microalghe, separarle dall'acqua, essiccarle e poi estrarre l'olio. Nel nostro caso non è necessario tutto questo consumo energetico, in quanto noi prendiamo le alghe, le inseriamo direttamente nel digestore anaerobico per produrre biogas, quindi abbiamo di netto tagliato molta energia. Quali sono le vostre aspettative dal punto di vista economico? Le aspettative sono numerose. Ad oggi non sappiamo ancora quanto sarà competitivo. Nelle nostre ipotesi abbiamo un allineamento tra i nostri costi di produzione e quelli convenzionali. Anche la storia di questo progetto è un po' peculiare, vero? Infatti siamo stati, definirei un piccolo miracolo italiano, in quanto il progetto è il successo di un lavoro di un assegnista di ricerca con un contratto scaduto, di un ricercatore. Che poi sarebbe lei, o sbaglio? Esattamente, e di due neolaureati, quindi abbiamo messo insieme le nostre forze per poter investire in questo progetto, scriverlo e vincerlo. Insomma, conclusione, 2,9 dei 3,9 milioni di costo del progetto arriveranno dalla Commissione Europea e poi c'è chi dice che i ricercatori costano inutilmente, è il contrario, portano soldi quando sono bravi. Va bene, grazie Simoni. Ringrazio a lei e a tutti gli ascoltatori. Bene, per questa sera ci fermiamo qui, appuntamento a domani, buona serata.